parlare della giornata già passata. Comincia il primo che era un po' graffiato, di come ho già lavato la sua gatta, al posto del sapone ci ha messo l'acqua ragia. Poi uscendo di casa non si è accorto che la sua scarpa non era allacciata, guardando due ragazze cade a terra da una capoggiata. Comincia il secondo ma ridendo, che la sua sigaretta non trovava, cercando già parecchio l'aveva sull'orecchio. Rimasti in tutto il mondo, rimasti noi rimasti, rimasti per un giorno, rimasti intrappolati, rimasti veramente, rimasti care bene, rimasti e pure amici, settembre e pure ottobre. Il ritornello non l'ho scritto, me lo sono scordato, sono rimasto, carta e penna avevo preso, ma dalla mente mi ho uscito per cercare le parole sul dizionario, sono rimasto, già mezz'oravo la via. Yeah.